Ladies and gentlemen, and now Alessandro Milan and Oscar Giannino. Voi due siete superficiali, sciocchi, il simbolo di una vita sprecata. Basta! Basta! Basta! Prendi due elementi innocui se separati come nitrato e glicerina. Combinali insieme e avrai un esplosivo potentissimo. 24 mattino. Attenti a noi due. Eccoci qui alle 8:19 minuti, caro Oscar. In questo 29, no, 30. Ormai volge al termine anche maggio. Siamo verso il rosolamento. Sai, il rosolamento dei cucumeri? No, sembra così, sia un'altra cosa. Il rosolamento dei cucumeri? Sì, diciamo che è un po' il mix di ciò che riserva la stagione con questo caldo, ma insomma anche gli effetti di questa accelerazione politica. Insomma, è un bel rosolamento di cucumeri. È un rosolamento di cucumeri, sì, effettivamente. Ammettiamo. Sì. Allora, chi santi del giorno? Offriranno cucumeri a tutti in campagna elettorale? Beh, altro che grandi cucumeri, come diceva il famoso film, se te lo ricordi. Vabbè, allora oggi. Santi che parlano di politica, per capirci, perché ci abbiamo in contemporanea un grandissimo santo per la nazione spagnola e la, tra virgolette, per definizione, santa della nazione francese, visto che oggi è l'unico monarca spagnolo che sia stato riconosciuto all'onore degli altari, cioè Ferdinando III di León e Castiglia, è un re che muore nel 1252, ma a cui si deve il più della riconquista, su cui poi misero la ciliegina Isabella di Castiglia con Ferdinando, un altro Ferdinando il marito, ma in realtà il più l'aveva già fatto lui due secoli prima, riconquistando ai Mori Siviglia, Cordova, Murcia e sepolto nella cattedrale di Burgos, meravigliosa per chi c'è stato, e quindi divenne il santo riconquistatore cristiano per definizione. Devo dire che anche nella letteratura dei Mori, delle fonti Mori, però è attestato che al di là di questo era un re durissimo in battaglia, ma le cui virtù erano riconosciute persino dai suoi avversari. Non passava a fil di spada i Mori dopo la loro resa, ecco, tanto per essere chiaro, questo bastava e avanzava per quell'epoca per essere definito un re buono. Ma dall'altra parte è anche il giorno dell'anniversario del rogo, e per questo quindi eretta agli altari si ricorda oggi, di Giovanna d'Arco, cioè la santa legata alla figura dell'eroico, dell'eroica resistenza contro gli inglesi nella guerra dei cent'anni, che Carlo VII userà con cinico realismo per poi mollarla ai borgognoni e non muovere un dito quando la bruceranno viva. E poi lo stesso Carlo VII, diventato re di Francia, la Francia riunificata, la erigerà all'onore degli altari. Queste le due feste nazionali dell'incrocio tra santi e politica. In questo giorno, mica troppo per caso, ma insomma, con un referendum del 1982 la Spagna entrava nella NATO, e pensa che sono passati solo 3 anni, ma a volte sembra, in questo, la storia che noi viviamo appiattita sul presente, a me ne sembrano passati già tantissimi invece, dalla sentenza della Corte Europea che passa a scattare in vigore, entra in vigore quella che consente a chiunque il diritto all'oblio da Google. E quando mi sono reso conto, erano passati solo 3 anni, mi dicevo, ma a me sembra di convivere con questa cosa già da anni e anni. Questo per far capire come siamo anche giornalisti, ma a volte non abbiamo noi per primi il vero senso del tempo. No, mi sembrava obbligato, che durasse già, cioè che fosse un diritto connaturato da un mucchio di tempo. Invece non è più così, e non è così perché sono solo 3 anni. Tra i tanti auguri per i compleanni oggi, Rodotà, Chiambretti e Vincino. Lo sapevo. Vincino, nostro amico Vincino. Che sembra che abbia un'età anagrafica, invece non è vero, perché chiunque lo conosca, non è vero, perché sa benissimo che lui è un folletto giovanissimo, certo. È una persona straordinaria ed è uno capace di far ridere dicendo la verità, cioè tutte peste corna possibili dei politici di tutti i tempi di cui è stato osservatore. Lui è un po' terribile quando lo chiamo alle 6:30, perché si lancia in epiteti e poi dice io faccio satira. E beh, è così. Devo dire, l'ho sempre difeso, e ti dirò la verità, la mia grande battaglia è perché che sì, in Sinna scendi in politica, perché io ho pochi dubbi. Signori, Flavio, signori, ne innalza il livello, signori, non è ironia, no, è così. Ma d'accordo, ma voglio dire, capiamo che il momento è grave. Quando leggiamo sul Corriere della Sera che Flavio insinna, nella sua prima intervista dopo le accuse, no, fai, ma non faccio ironia, dice a questo punto forse scendo in politica. Va bene, ma la politica è aperta a tutti, la politica, la società civile, siamo una società ma aperta. Non stiamo parlando di tutti, stiamo parlando di Flavio Insinna. Flavio Insinna potrebbe scendere in politica. Scendere, entrare. Perché tutti quanti in campo dissero così ai tempi di Berlusconi. E adesso, dopo sei decenni, ed è lui che orchestra. Ma hai visto, li ha allineati in quattro giorni sul proporzionale. Dopodiché ha fatto morire di paura Alfano. E adesso ad Alfano dice: ma ti salvo io, mentre tu hai governato, traditore, con Renzi. E lui ti vuole sbattere fuori col 5%. Ma ti rendi conto cosa guadagna la politica quando dallo spettacolo i suoi protagonisti fanno l'ingresso rispetto a questi miserabili praticoni della politica italiana? Gli uomini di spettacolo sono di un altro livello rispetto a noi. Allora, tra l'altro, se volete chiamarci su questo momento politico un po' confuso, diciamo così, anche se sembra, anzi, l'unica cosa chiara è adesso che tutti vogliono andare a votare. Tutti vogliono andare a votare. Tre vabbè, tutti, quattro, grossi. Anche la Lega. Sì, vabbè, però la Lega non fa Forza parte Italia, del, PD e del grande accordone. L'accordone è l'accordone a tre. Berlusconi, Renzi e Grillo. 800 24 00 24. Tra l'altro, la notizia politica è che Berlusconi, dopo aver lanciato l'idea del 5% come sbarramento e il proporzionale, ora dice forse sarebbe meglio, mi converrebbe di più il 3% più del 5%. Dai, Alfano, ti salvo io. Eh sì, vuol passare Alfano, che tra l'altro invece ha incontrato Renzi, è uscito e ha detto: è un serial killer. Questo ai suoi più stretti collaboratori, perché Renzi sul 5% non ci sente. Capisco, io fa il mestiere suo. Alfanino torna da Papino. Silvino. Silviuccio. Va bene, questo è lo scenario politico, ma noi... Poi c'è quello economico, di cui non fotte niente a nessuno. Sì. Il grande regalo di questa generosa compagnia di corresponsabili, ma insieme indifferenti all'economia nazionale, è quello di un decreto per fare cosa? L'hai letto su Repubblica? Per fare il regalino di dire: caro non governo, figlio della proporzionale con cui spodestiamo gli italiani dal diritto di scegliere che coalizioni, che governo, caro governo, ci facciamo un regalo. Ti lasciamo un bel regalo, un bel decretuccio in cui a vedertela con le clausole degli aumenti fiscali sarai tu. Pensa quanto siamo generosi e quanto siamo responsabili. Perché Repubblica dice che il governo... No, Repubblica, saranno costretti a fare... Gentiloni, vabbè, insomma, oggi Repubblica lo anticipa, dice che si sta pensando a un decreto perché a gennaio scattano le clausole salvaguardia, quindi l'IVA va dal 10 al 12 e dal 25, 22 al 25. Al 25, quel bel regaluccio. Per un costo di 19 miliardi e rotti. Chi aveva detto tutto a posto i conti, noi vi lasciamo i conti intatti, immacolati, nel fondo schiena. Bisogna fare un decreto per far slittare queste clausole di salvaguardia al primo aprile, per lasciarle integralmente a carico di chi viene dopo, capisci? Sì, al primo aprile. Intemerata banda di ladri. Ma d'altro, che faccia di tolla. Se si va a votare in autunno e non si ottiene una maggioranza certa, bisogna, come dire, fare slittare di qualche mese in attesa di una maggioranza. Ecco, certa. Chi viene dopo se lo trova dopo? caldo l'aumento dell'IVA. Cioè, a dire la verità, se lo trovano loro, se ce lo troviamo noi italiani. No, ma è ovvio che altro, prenderla in tasca siamo noi. Ma esatto. Ci diranno che è colpa dei tedeschi, come ovvio. È colpa dei tedeschi. Però in questo scenario politico confuso noi vogliamo parlare anche di una cosa concreta, che è la scuola. Vero. Che è un po' abbandonata a se stessa su alcune problematiche, una delle quali sicuramente la professoressa Paola Bellini, che ci ha ascoltato, pensa di essere cascata in un luogo di matti, ma non è così. Professoressa Bellini, buongiorno. Diamo ironia a ciò di cui c'è poco da ridere, per così dire. In realtà la professoressa Paola Bellini è un dirigente scolastico all'Istituto Comprensivo di Pontevico, Brescia, ma anche all'Istituto Comprensivo di Vescovato, Cremona, per un totale di quanti plessi lei controlla? 21 bingo. Ma io medaglia d'oro al valor civile per questo solo fatto iniziale. Ma cosa vuol dire 21 plessi? Proprio 21, 21. Vuol dire 21 plessi, vuol dire circa 2600 alunni, quindi 2600 famiglie. Vuol dire avere qualcosa come 260 docenti da coordinare, più tutti i collaboratori scolastici, il personale delle segreterie, tutti gli aspetti amministrativi, legali connessi a Ventuscuola, insomma una bella impresa. Certo. Ecco, professoressa, nessun politico forse ci riuscirebbe. Vabbè, chiaro, questo forse è un caso, è un caso limite, ma è il problema di 1500 posti vacanti di dirigenti, quelli che si chiamano presidi, per far capire a tutti, i dirigenti scolastici, prepensionamenti chiesti da altri, per cui da settembre che succede? Succede che ci saranno molte scuole senza i dirigenti, oppure scuole come, cioè, oppure casi come il suo, ecco. Esatto. Da settembre il ricorso alle reggenze sarà praticamente sistematico per forza di cose. E quindi, allora, il mio caso, come dicevate voi, è decisamente limite, perché la mia reggenza a vescovato è stata chiesta dalla sottoscritta. Voi direte questa è pazza, in realtà vescovato è la scuola dove io ho insegnato per 7 anni italiano, storia e geografia, alla scuola media. L'anno scorso sapevo che sarebbe andata in reggenza, mi hanno chiamato da vescovato dicendomi: Paola, visto che conosci così bene la scuola, la realtà del territorio, le famiglie, vieni tu in reggenza. Ben contenta di avere pochi plessi scolastici da gestire, ha accettato anche questo. Io, come diceva Tamaro, va dove ti porta il cuore, ho accettato questo incarico e fortunatamente posso dire di aver passato quasi integra l'anno scolastico. Certo è che pensare di fare un altro anno di questo genere, insomma, è un po' dura. Infatti non penso che la chiederò io spontaneamente l'anno prossimo la reggenza, ma il rischio qual è? Il rischio che arrivi d'ufficio. Ah, è chiaro. E quindi anche chiaro. Viviamo in un paese in cui d'ufficio chi viene messo in ruolo non deve più accettare la cattedra dove c'è la domanda, cioè dove le cattedre sono scoperte, mentre voi che siete stati dipinti come gli sceriffi osceni, esatto, che decidevano di scegliere a testa, esatto, loro, non era così ovviamente, no, cosa che poi comunque vi è stata limata come facoltà, a voi invece arriva la nomina d'ufficio. Ma io veramente il mondo che va al contrario, cari ascoltatori. Arriva la nomina d'ufficio, ma le aggiungo una piccola ciliegina. Tra gli obblighi del dirigente scolastico del primo ciclo c'è anche l'obbligo di fare il presidente di commissione agli esami di Stato, cioè agli esami di terza media. Io dal 10 di giugno sarò anche presidente di commissione in un altro istituto. Tutto a costo zero per lo Stato, perché quello è un mio obbligo di legge, e quindi devo andare a fare anche la presidente di commissione. Allora, ricordiamo anche a chi ci ascolta, perché non credo che tutti lo sappiano, che i dirigenti scolastici sono quelli che hanno la retribuzione totalmente non raffrontabile con i veri dirigenti dello Stato. Lo sono anche loro. Infatti, però gli altri guadagnano da dirigenti, loro invece no. Hanno fatto una protesta il 25 di recente. C'è stato anche uno sciopero della fame, forse lo sciopero della fame, quello forse un po' esagerato, però insomma no, stato è contento, così guarda, così risparmia sul panino, più magri più snelli, cari dirigenti. No, però la questione è molto seria, cioè come si sopperirà da qui a settembre a questi posti vacanti? Non si sopperirà, immagino, perché non c'è tempo, credo. No, non c'è tempo per indire un nuovo concorso, assolutamente. So che al Ministero si stanno attivando per definire le regole del concorso, perché quello del 2011, da cui peraltro sono uscita io vincitrice, ha vissuto delle traversie di corsi e ricorsi pazzeschi. Questo è un altro gran classico italiano. Esatto, per cui onestamente penso che appunto si stia cercando di fare un concorso il cui regolamento sia, come dire, a prova di TAR. Ma per tutta una serie di cose immagino che si sia arrivati ad adesso senza aver indetto il concorso, e quindi di fatto i concorsi hanno dei tempi tecnici, e quindi di fatto noi l'anno prossimo ci aspettiamo un quadro che è quello che avete descritto, cioè pieno zeppo di reggenze. Pieno zeppo di reggenze. Senta, professoressa, ne possiamo approfittare sulla questione vaccini? Perché credevo ci avessimo un plesso che ci avanza. No, la nominavamo sul campo anche. No, quello no. Perché c'è tutta una grande... Però almeno gli diamo buon umore. Adesso sta per entrare in 14 riunioni quotidiane, esatto, per tutti i vari plessi. Però per il momento al buon umore. No, perché oggi il ministro dell'istruzione Valeria Fedeli spiega, certo, riguarda più che altro le scuole elementari, eccetera, ma sono pronte le scuole per questo decreto vaccini? Sapete qual è la situazione generale sulla questione vaccinazione obbligatorie, segnalazione ai tribunali dei minori per i genitori che si rifiutano? Cioè, le scuole sono pronte? Diciamo che dovremmo avere delle indicazioni precise, perché anche qua una volta che si prendono delle decisioni e si fanno degli eventuali decreti, poi c'è l'attuazione del decreto, quindi mi auguro che le scuole abbiano indicazioni molto chiare, perché se mi si presenta un bambino non vaccinato a scuola, io comunque, essendo un minore, devo accoglierlo in ogni caso. Infatti, quindi, oggi il ministro Fedeli chiarisce proprio questo punto: il diritto allo studio non deve mai essere negato. E quindi, se esatto, anche un bambino non è vaccinato, anche gli elementari, va accolto a scuola. Va accolto a scuola. Dopodiché, poi va segnalata, però, la situazione. Dopodiché, cosa si fa dopo? Allora qui aspettiamo indicazioni chiare. Vede, il mondo dei dirigenti è un mondo di, così come quello della scuola in generale, è un mondo di api laboriose che fanno, proprio perché l'utenza è estremamente delicata, proprio perché il mondo della scuola, diciamocelo, è ancora appassionato. Il problema è non svuotare questa passione, il problema è non far diventare tutto mero adempimento burocratico. Sì, e di burocrazia già ce n'è. Oscar, che voleva abbastanza dirci? No, io devo dire, leggendo l'intervista della Fedeli, mi ha capito due cose. Primo, ho finalmente capito il contrasto che non c'era stato spiegato, colpa anche della stampa che non ha fatto una domanda alla presidenza del Consiglio quando sulla c'è stato Lorenzin, con perché tra lei la ragione del contrasto la ragione del contrasto è radicale rispetto a Lorenzin, perché il ministro è inequivoco, cioè dice tre cose nella sua intervista. Primo, nessun bambino resterà a casa se non vaccinato. Esatto. Una volta che però uno la mette giù così radicalmente, capisci che nella scuola elementare, per chi non ha frequentato la scuola materna, cioè non è incappato prima nel filtro che invece è stato adottato dal governo, a meno che intervenga davvero il magistrato, è un'arma spuntata. Ma però dice va accolto, ma se non è vaccinato va segnalata all'ASL. Testualmente nessuno resta a casa. Nessuno resta a casa. Primo. Secondo, dice, noi come amministrazione scolastica non ci facciamo carico della campagna di formazione, ci pensa la Lorenzin, cioè o la salute ci pensa lei o noi abbiamo troppo da fare per pensare anche quello. Terzo, va anche nel merito Alessandro della sostanza, che dice, e soprattutto ci spieghi perché 12, cioè la Fedeli non è d'accordo neanche sul numero dei vaccini. No, per dire che è un problema che se lo rimbalzano adesso sui dirigenti scolastici e sugli insegnanti, essendoci in radice un dissenso di questa portata, è una maniera pilatesca per lavarsene le mani, perché all'interno del governo mi pare che davvero non abbiano le idee chiare le due ministre. La professoressa Paola Bellini si occuperà anche di questo. Mediatrice culturale tra le due ministre. Mediatrice tra le due ministre. No, scherziamo ovviamente, le auguriamo buon lavoro, buona giornata. Comunque, ragazzi, quando ha voglia di farsi quattro risate, noi siamo qua. Esatto, noi siamo qui. Siamo grazie qui. A voi, grazie, buona giornata. Arrivederci. Paola Bellini, dirigente scolastico a Pontevico. Vescovato, se facciamo tutto l'elenco è finita la trasmissione. Pontevico, Brescia e Vescovato, Cremona, ma quello se l'hai scelta da sola. No, perché gli ha detto, dai, sei stata qua. Ti porta il cuore. Pare che la chiamano anche dalle parrocchie. Mancano i preti, vuole fare il parroco. No, no, c'è Marco che ci chiama da Chiasso. Attenzione, Chiasso. No, doveva darti la busta? No, hai mancato l'appuntamento. Oggi, ma ti chiamano così. Oggi Oscar è proprio Marco. Smentisca in diretta subito. No, Marco, buongiorno. Buongiorno. Smentisco assolutamente. Grazie. E comunque, grazie, anche di fronte alla verità, smentire a 130. Esatto. Vabbè, bravissimo. Così insinua il dubbio, però. Bravo, così Marco insinua il dubbio. Vabbè, intanto vi faccio i complimenti. Prima di tutto. E io ascolto la vostra trasmissione da molti anni. Fino al 2009 ho lottato con voi. Dopo il 2009, il primo di maggio, ho mollato tutto e sono entrato in Svizzera. E sono residente in Svizzera. Non c'era lotta. Non c'era lotta in Italia. Esorto tutti gli italiani che hanno la possibilità di attraversare il confine e di lasciare questa valle di lacrime, di ignoranti e di incapaci che abbiamo in tutti i luoghi della gestione del pubblico. purtroppo nella media, questa è la mia esperienza. Però volevo parlare di due cose. La prima, ricollegandomi al discorso di ieri, della qualità dei politici, che è lo specchio della qualità della società italiana. Sì. L'hanno costruita loro così, Sono 30 anni che si impegnano per fare dei giovani incapaci di affrontare le difficoltà, dei vecchi incapaci di aiutare i giovani ad affrontare le difficoltà e dare dei modelli. Hanno distrutto la Chiesa, chi doveva farlo, la famiglia, rendendola tutto ciò che è possibile si può fare, e evidentemente la scuola. Oggi parlavate della scuola, perché in questa maniera evidentemente noi abbiamo dei giovani, ma anche delle persone di 35-40 anni, che sono incapaci di affrontare un discorso. Beh, l'hanno anche scritto alcuni presidi di scuole. E quindi, Marco, cosa che dobbiamo trarre da questa furia di Andatevene. Chi può se ne va. La qualità dei politici italiani non è lo specchio della società, è la società italiana. L'hanno costruita loro. Perfetto. E così come la legge, voglio dire, pochi cancellieri, pochi amministrativi. Io conosco personalmente un giudice in Veneto che mi dice che è impossibilitato operare perché non hanno il toner delle fotocopiatrici. Sì, ma questi casi così ce ne sono tantissimi. Comunque, Marco, insomma, ci ha dato uno spaccato che si può tradurre con quel "lasciate l'Italia voi che potete". Questo è Marco che si chiama da Chiasso, e non mi deve consegnare buste. Comunque, io non ho voluto sentirmi male, perché mi dica quanto paga di aliquota. Poi ho preferito evitare. C'è ancora Marco, c'è ancora Marco. Non me lo dica. È tutto diverso. Vabbè, più o meno. Nel senso che qui, se qualcuno, un politico con responsabilità, intanto solo due mandati, poi a casa. Sì. Ma poi, a parte questo, se sbaglia a Ginevra, lo aspettano fuori dagli uffici, gli tirano le uova. Cioè, immaginatevi se la Lorenzin ricevesse delle uova sulla testa. Vabbè, ma perché, povera Lorenzin? No, però il nostro ascoltatore ci dice che, al di là della battuta delle uova, in Svizzera il modello dal basso. Cioè, davvero, pensa come sono stati abituati a votare dal basso, perché la politica non è che ha concesso, come sembra qua, che quando si pronuncia l'elettorato i politici alzano sopracciglio dicendo "questa massa di ignoranti, così vincono i populisti". Guarda, i peggiori decisori sono loro politici, mi dispiace, e non è antipolitica dirlo, ma detto questo, lì abituati da sempre a votare, magari votano, ed è un paese in cui dice "ma voi volete spendere di più?". No! In Italia sarebbe magari anche un po' il contrario, però per dire, il modello dal basso in Svizzera, piccolo paese, funziona come? Perché sono stati abituati da 30, 40, 50, 60 anni a capire che il voto conta, e quindi lo utilizzano con intelligenza. Perché capiscono che la forza di un paese sta nella forza delle sue basse aliquote rispetto a elevati livelli per quello che spende. Comunque, un ascoltatore dice "già fatto, anch'io, ciao da Lugano, sono già fuggito". Va bene, adesso non è che però tutti possono trovare questa ricetta facilmente. Andiamo un attimo in pubblicità e poi rientriamo, state con noi. 24 mattino, attenti a noi due. Eccoci alle 8:45 minuti, siamo qui ancora in diretta. Stavamo commentando la vicenda di Fini. Di Fini. Che cosa non ti... No, io devo dire la verità, infatti chiedevo aiuto a te, perché nella lettura dei pezzi dei giornali in cui si ricostruisce questa vicenda, l'avete letta probabilmente, la conoscete, il fermo giudiziale di queste polizze per un milione intestate alle figlie, quando al giornalista del Corriere della Sera, che tenta di incalzarlo per capire meglio, Fini dice "no, non rilascio dichiarazioni", leggete bene, voi che fate informazione, le note dei miei legali, e il giornalista del Corriere a un certo punto dice sembrerebbe capire che no, ne hanno bloccate perché per l'incapienza dei conti di Giancarlo Togliatti, per tra virgolette l'incapienza dei conti, e lui dice ride, ma c'è poco da ridere, dice Fini. Si dice, se la motivazione del provvedimento è proprio l'incapienza dei Togliani, sono accusati di aver preso dei soldi e sarebbero incapienti, c'è qualcosa che stona. Io seguo, per capire, da osservatore questo ragionamento, e ne deduco che però questa non è un'arma né processuale né politica per negare le responsabilità, visto che le responsabilità nuove sono di indicare in Gianfranco Fini colui che ha scelto lui pienamente consapevolmente l'appartamento di Monte Carlo, da, e cioè è semplicemente una cosa che butta fiele su sua moglie. Ho capito, però non è che nega la responsabilità, ecco, questo è quello che sì, diciamo che non mamma è un modo mia. Per come dire anche per smarcarsi dalle domande, dalle cronaca domande giudiziaria di... ormai con la politica niente a che fare, però sì. Insomma, c'è Maria che ci chiama da Roma, buongiorno. Buongiorno. Eccoci. Volevo intervenire sui vaccini e sì, non è ovviamente un consiglio né un'esortazione, ma è un'esperienza. Quando aveva 17 anni mia figlia ha deciso di fare un anno all'estero, gliel'ho lasciato fare. Mi ha chiamato il primo giorno di scuola in dall'America, mi ha chiamato con Skype e mi ha detto: mamma, qui non mi fanno entrare in classe se non termino il ciclo delle vaccinazioni, è vero che me ne manca una? E allora io, che le avevo fatto fare, ma per motivi suoi di salute, le avevo fatto fare anche facoltativi, non mi ero posta troppe domande perché servivano alla sua salute all'epoca, quando era piccina, per cui le ho fatto fare anche le facoltative. Sì. E lei mi ha detto: mamma, è vero che manca l'ultima, infatti era dopo i 14 anni, lei è una paurosa, allora ho detto: siccome sono facoltative, l'ultimo richiamo non glielo faccio. Invece era Mary, dall'America, mi hanno fatto, lei mi ha fatto sapere. E che è successo? Ha dovuto fare l'ultima? Ha dovuto fare l'ultimo, non solo, ma se non avessi avuto la certificazione casuale della varicella che aveva contratto in Italia, le avrebbero fatto anche il vaccino della varicella. Questo per dire che se i ragazzi un giorno andranno a scuola all'estero e dovesse capitare quello che è capitato a mia figlia, meglio, ecco, meglio si troverebbero, io dico solo che si troverebbero in questa difficoltà, tutto qui. Poi l'efficienza, diciamo, del posto è stata questa: lei hanno fatto il vaccino, la mattina stessa è entrata in scuola, tutto qui. Va bene, insomma, è Maria, è un'esperienza, un racconto di vita vissuta, visto che Valera Fedeli dice aggiungiamo nessuno. Anche, non è che tutti i paesi hanno discipline analoghe, in Germania per esempio non sono obbligatori, ma perché le coperture vaccinali spontanee, perché la gente è consapevole, sono superiori al 95%, noi siamo scesi a quasi all'80% per alcune patologie. Maria ci ha raccontato questa storia, la ringraziamo. Utile, molto Maria, utile, e forse speriamo che la finestra Fedeli ci sia in ascolto, visto che lei dice che comunque sia, se arrivano alla scuola dell'obbligo senza vaccini nessuno resta a casa, e allora il decreto potevate risparmiarvelo. Cioè. Paolo invece da Milano, buongiorno Paolo. Sì, buongiorno Nitro, buongiorno Glicerina, mi fate morire, comunque vi ascolto sempre. Grazie. Io sono di quelli che per la serie penso che i nostri cari politici pensano prima di tutto, prima che ai nostri e ai loro interessi, diciamo alla cadrega, no? Come direbbero in Sicilia. Ma io credo che, vediamo un po' la vicenda adesso di questa legge elettorale al 5% di sbarramento che fa avere spauracchio ad Alfano e a tutti quelli che come lui ritengo partiti inutili, quando però poi servono, no, alla politica per fare gli accordi e ci ritroviamo maggioranze non votate, oppure come a settembre che si vota, ma che siete matti? Io pensare che si voti a settembre vuol dire non far raggiungere, mi pare deve arrivare fino a novembre, se non ricordo male, la durata di questo, chiamiamolo, governo per il maturare una rendita. Ma io volevo invece soffermarmi. Non è proprio così. Quale rendita? I vitalizi maturano il 24 settembre, se proprio. Ah, 24 settembre, quindi ce la si fa. Beh, comunque è strano, effettivamente. No. E ce la si fa. Quindi ormai li prendono i vitalizi. Ma, anche questa cosa del votare il 10 settembre per privarsi i vitalizi di Beppe Grillo, bisogna dirlo, è una cosa tecnicamente scorretta, perché resterebbero comunque in carica fino alla prima riunione del Parlamento eletto. Esatto. Quindi almeno 20 giorni, quindi non, i vitalizi ormai sono maturati, dai, toglietevi. Però Paolo, che vuol dire? Dite, vorrei soffermarmi su quello che avverrà domani e spero che voi vivamente ne parlerete giovedì. Domani viene finalmente calendarizzato, è in calendario, quindi dovrebbe essere votata la famosa, diciamo, proposta di legge Richetti che riguarda il ricalcolo contributivo dei vitalizi. Ecco, io faccio una previsione, sono convinto che ne vedremo delle belle, poi però spero che voi giovedì ne parlerete. Vi ringrazio. Grazie Paolo. È il tema dei passo vitalizi. Avanti, vediamo se, però con una piccola ciliegina negativa, perché hanno aumentato del 20% l'assegno ai superstiti. Esatto, in un disegno di legge che a quale io sono, noi siamo molto favorevoli. Ma se Richetti anche vuole, lì non se riescono a evitare un regalo. Anzi, noi invitiamo Richetti, cioè, già invitato pubblicamente, sì, c'è il ricalcolo dei vitalizi, ma è spuntata questa cosa, per gli eredi vengono ricalcolati al rialzo invece il 20%. Beh, che uno dice, boh, vabbè. No, per cui c'è una cosa positiva. La cosa molto positiva, perché il ricalcolo per contributivo, riconosciamo, è il fondamento. Anche per il pregresso, esattamente, quindi esattamente, basta diritti acquisiti. Persino il genere rompicoglioni dice, ecco, perché lo propongo da anni ed è così, infatti, che mi andava fatto. Però è sulle vedove e i figli, vabbè, e dice, vabbè, diamogli di più. C'è Francesco che ci chiama da Padova, buongiorno. Buongiorno. Eccoci. Io invece volevo fare una protesta enorme, grande, per la legge elettorale, sì, che sarebbe il vecchio vecchio proporzionalismo che c'era ai tempi dell'ADC, e Berlusconi vuole fare l'ADC dei tempi moderni, perché lui si piazza al centro, dopo chi c'è, si governa con la destra, va bene, si governa con la sinistra, va bene, però lui ci vuole stare sempre, comunque vadano le elezioni. Però questo, il discorso è che i conti dello Stato così andranno a scatafascio, perché ci saranno dei ricatti, ma fra partiti, io voglio questo, tu, per non fare brutta figura, bravo Francesco, te lo do, e anche maggiorato, praticamente l'Italia sarà condotta serenamente al fallimento. Insomma, Francesco fa questa protesta molto giusta, ma sai che Oscar, devo dire, guarda quanti messaggi ho, guarda, mio figlio è fuggito in Messico nel 2007, in Italia non valeva un centesimo, oggi in Messico fattura 1 milione. Io sono fuggito, sono capo ingegnere Alberto da Norimberga. Ne abbiamo anche però di tanti che sovranisti che credono che sia un insulto alla patria andarsene. Io a loro dico con grande serenità, si vota con le mani una volta o 5 anni e tutti i giorni anche con i piedi, quando un paese ti asfissia, non funziona l'ascensore sociale, tutto è sballato, e uno sceglie di andare altrove, ed è una scelta che definire anti-italiana, secondo me, vi hanno messo qualche piccolo sostanza tossico nel cervello, perché non è così. Per esempio, su questo credo che voglia intervenire il nostro ultimo ascoltatore, Francesco da Napoli, buongiorno. Sì, pronto, buongiorno. Eccoci, buongiorno Francesco. Io non sono di Napoli, no. Sto andando a Napoli per ragioni di lavoro. Le anticipo questo per giustificare, se possibile, il mio intervento. Vi seguo da sempre, lei la mattina alle 6:30, eccetera. Dico questo soltanto, io spesso e volentieri non sono d'accordo con lei, adesso con Giannino, ma vi seguo perché siete motivo poi di ripensamento, perché a guidare si ragiona. Volevo intervenire per una cosa. Io ho 73 anni, potrei essere a casa perché sono pensionato, una piccola attività che ho fatto da me 50 anni fa, e continuo a camminare pur nelle difficoltà del momento. Ma sentir dire che l'Italia fa schifo, da chi se ne va in Svizzera, ripeto, ha tutto il sacrosanto diritto di cambiare. Ognuno ha se avessi avuto io la possibilità, finita l'università, di andare fuori, forse l'avrei fatto. Ma se sono rimasto, mi irrita che vengo così incluso in una società che fa schifo di merda. Io non faccio schifo e non faccio merda, anche perché molto probabilmente quel signore che ha parlato, quando era in Italia, non so che cosa ha fatto per modificarla. Io sto cercando di modificarla, anche sentendo Giannino, anche sentendo Milan, anche non essendo d'accordo con loro. Però quando anche me ne andassi, ed è un mio sacrosanto diritto, non direi di aver lasciato una società di merda, perché avrei vergogna di aver fatto sì che diventasse di merda. Va bene, Francesco, vede che insomma. Ma infatti, Francesco, questo io capisco. È importantissimo anche confrontarsi da sempre. Io ho un'obiezione di chi dice: Giannino, tu non ti dovresti permettere, a parte che la gente che mi dice che ovviamente non dovrei stare a un microfono e così via, però dice: perché dici che lo Stato è ladro? Lo Stato siamo noi. E molti continuano a essere convinti, confondendo lo Stato comunità con lo Stato persona. Lo Stato comunità, quello di cui facciamo parte tutti, non è lo Stato persona, cioè quello gestito da una minoranza di burocrati di professione e da una minoranza assoluta di politici eletti che restano lì tutta la vita. Ecco, io distinguo, e per me, se qualcuno dice che è uno schifo l'effetto della somma di PA e politici, non sta dicendo che è uno schifo lo Stato comunità, cioè noi italiani. Noi italiani possiamo votare una volta ogni 8 anni, per il resto decidono tutto loro, scusate. In ogni caso, la ringraziamo Francesco per questa riflessione, così riflettiamo anche noi davanti al caffè. Infatti io lo ringrazio davvero, perché è un confronto vero. Ci fermiamo qui con Elisabetta Fusconi, Lorenzo Nespoli e Peter Bescapè in regia. I miei 5 gatti hanno la foto di Insigne. Bisogna sapere domani che diranno i 5 gatti di Oscar sulla candidatura di Flavio Insigne. Se mai ci sarà. Dipende che croccantini ci dà. Però vabbè, vediamo un po'. Dai.